and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Io non so nelle altre città, però a Milano c'è una fibrillazione per l'elezione del prossimo sindaco. Sì, il bambino sindaco importante. I bambini candidati sono super impegnati a farsi vedere nei quartieri più sfigati della città, quartieri in cui non erano mai stati prima e che fanno finta di conoscere benissimo invece, sì, no? Sì, sì. Ah, salve, certo, carissimo. Certo. Ah, questa via mi ricordo da piccolo. E beh, c'è un bambino candidato del PD in particolare che di bugie così ne racconta tantissime. Ma come? Un bambino candidato Pinocchietto? Eh sì, che il bambino candidato sindaco Stefano Boeri sia un bugiardo, non lo diciamo noi. No. Non lo dice la stampa di destra, no. Non lo dice Dago Spia, non lo dice il bambino Cruciani, ma lo dice la sua mamma. Ma come? Una mamma che ostacola la campagna elettorale del figlio, ma non si è mai visto. In effetti la signora Cini Boeri, famosa designer e mamma del bambino Stefano, in un libro sulla sua vita dice en passant che Stefano da piccolo era un inguaribile bugiardo. Per non mangiare la minestra fingeva di avere delle coliche, era bravissimo, tanto che poi chiamavano il medico, poi si scopriva non aveva niente, era solo una scusa. Quello lo facevo anch'io e anzi bisognerebbe consigliarlo anche al bambino Alberto. Sì, però adesso che vuole fare il sindaco, Stefano Boeri, non può passare da bugiardo, non è una bella cosa. Vabbè, ma quanti anni ha adesso? Vabbè, 54, ma cosa c'entra? Adesso cosa ogni c'entra? Cosa che dice tutti stanno attenti per vedere se gli cresce il naso. E in effetti da sosia di Mourinho che era sta diventando sempre di più un'inquietante sosia di Pippo Franco, di Mourinho, Giorgio Gaber. Ma cosa però, stai dicendo? Va bene, sentiamolo in alcune delle sue bugie più clamorose. Con Ricky Bardet, con William McDonough e Swan Busquets stiamo ragionando su alcuni dei concetti che dovrebbero caratterizzare gli spazi, i paesaggi della prossima Expo internazionale. E che bugie ci sono in questa frase? Dice dei nomi. In realtà questi architetti hanno poi tutti negato di aver mai conosciuto Boeri. Boeri chi? Noi vogliamo meno automobili sui marciapiedi, più biciclette in giro e più panchine per i pedoni. Queste sono cose che sembrano semplici, ma sono fondamentali per migliorare la vita di Milano. Ecco, qui invece omette di dire che lui la bici non la sa guidare. Ma cosa dici? E quindi è sempre in macchina a parcheggiare sul marciapiede. E le panchine in realtà lui le deturpa col pennarello bianco. Ma che pena, cosa scrive? No, vota Boeri magari, no? Oppure lascia il numero di cellulare, qualcuno magari chiama. Qualcuna? Chi? Ma cosa stai dicendo? Ma ti inventi tutto! Ma non è vero, l'ho letto sul libro di sua mamma. È sua mamma che mette in giro queste cose. Ma ancora sto libro? Ma io non ho capito, ma sua madre almeno, lei lo vota o no, Boeri? Direi di no. Dopo 7 settimane di gara aspra ma corretta, è il momento di coronare il vincitore di Kid Factor. Chi sarà? Seba Bottini! Ci mancherà, martedì senza talent show. Questa è l'ultima puntata di Kid Factor. Ultimissima. Io so che tutti i bambini all'ascolto sono già in lutto perché insomma non sentiranno altre canzoni di Seba e di Dini. Come faranno? Non sentiranno più Morgan. Non sentiranno più... basta, finito. Basta, ormai così. Però coraggio, perché troveremo il modo di non farvi mai mancare la vostra dose di Seba e di Dini. Sì, le canzoni le continueremo a trasmettere, certamente, però non c'è più la gara. Vabbè, purtroppo no. Lo stop al mail voto di 2 settimane fa ha permesso alle nostre frotte di stegisti di contare una ad una le numerosissime email arrivate a chiedoasilo@radio24.it, esattamente come per il Presidente della Repubblica, e questo è il responso ufficiale contro il quale non ci potranno più essere ricorsi. Attenzione, il grande momento è arrivato. Il vincitore dell'edizione 2010 di Kid Factor è... incredibile, il risultato è identico. Seba 50% e Dini 50%. Eravamo in testa, io e Seba, ma in testa, ma proprio alla niente, grande. Se mai era in testa Seba, cosa c'entri 70% Seba, 30% Dini. Succede all'ultimo, succede all'ultimo, vedi, c'è questo sollevamento popolare perché in effetti la bella musica deve essere premiata. Vabbè, e quindi comunque, Dini scusa una cosa, ha recuperato. Negli ultimi giorni sono arrivate delle mail da nomi un po' strani, perché vedi che fino a un certo giorno i nomi erano italiani, normali. Adesso guarda, dall'altro ieri hanno cominciato a esserci Julia House, Leonard Aghero, Percy McSilver, Brutus Mikhailikov. Cioè sembrano i nomi quelli della spam, sai, quelli. Sì, potrebbe sembrare, ma guarda che la radio attraverso il web. No, guarda che ti sta suonando il telefonino e fai finta di non saperlo, ma c'è il telefonino che suona. Rispondi. No. Rispondi. Ma no. Hello? Yes, no, it's chiedo asilo, C-H-I. No. Come chiedo asilo? Ma con chi parli? Ma niente, niente, devo dare delle cose. At radio, like radio, ma K24. Ma sei un truffatore, stai pagando quelli della, quelli lì, quegli indiani che mandano la spam in giro. Ma non è vero. Per votare Dini. Ma per niente. Ma ti sembra il modo? Ma questa è una gara tra bambini, ma insomma. Vabbè, bambini, bambini che tutti devono essere premiati, perché non è giusto che quando si fa le gare tra i bambini ci sia uno che viene premiato e l'altro no. Ma... e allora affinché il regolamento venisse comunque rispettato, ma tutti e due i nostri bambini, vabbè, Seba e Dini, avessero le loro gratificazioni. Tu cosa hai fatto? Hai pagato gli indiani per mandare la spam. Ma qualche indiano, a parte che sono pakistani, quindi non, c'è, non sono indiani. E poi ha mandato 2-3 mail, 2-3 mila mail. Vabbè, insomma. Quindi dobbiamo accettare questo responso, 50%, quindi non vince nessuno. Nessuno, nessuno. Anzi, tutti e due, Drago, è qui il bello, perché questo è il grande insegnamento di Kid Factor. Ma cosa? Tra bambini le gare non hanno senso, vabbè. Non ci sono né vincitori né vinti. Vabbè, ma io preferivo se vinceva Seba. Ma guarda che anch'io sono stato dietro a Seba, visto che era così avanti coi voti, gli ho anche fatto fare quello che tutti vincitori di talent show, ma no, facevi operazioni, ma di sabotaggio, lo lì, sai che chiunque vinca il talent show di in questione deve poi diventare testimonial dello stesso. Beh, quindi certo. ho cercato con il tuo Seba di fargli dire il nome del programma, di fargli fare uno spottino. Vabbè, ma non ci sta, ma che ci sta, ma senti qui, ma te che su radio mi metti? Ah, provo a dirlo allora, tutti i giorni su Radio 24. Via sta mano, via sta mano. Gaetano, vai via con quella fase di merda. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Tenere il microfono. Che ti ammazzo. Ciao, io sono Seba e alla batteria e chiedo asilo e Gaetano mi mette su Radio 24. E ciao a tutti. A domani. A domani mattina. Alle 1:30. No, domani pomeriggio alle 5:15. Domani alle 8 di sera. Ciao, chiuso. È inguaribile Seba. È inguaribile. Sarà anche un artista, però affidargli delle cose artista. Istituzionali. È un vero artista, è un po' come Morgan. Lo strano che Morgan invece preferiva Dini. Vedi, non ho mai capito. Chissà perché, cosa. Perché è superiore a Dini. Can anybody find me? Somebody to love. Che musica, bravo Dini, ci mancherà. 50% dei voti per lui, 50% dei voti per il mio Seba, che non sarà tanto bravo ad imparare a fare il pappagallo, a fare un po' la scimmietta ammaestrata per il suo talent show. Io ho chiesto di dire l'appuntamento con Chiedo Asilo tutti una forzatura. I giorni Radio 24, vabbè. Però lui è bravo a cantare ed è bravo a fare il punk, anche quando fa le cover. Sentiamo la sua indimenticabile Pippi. Sentite la canzone di Pippi Calze Lunghe. Ecco, sono qui di calze lunghe, così mi chiamo, credo proprio chi una non c'è né non c'è stata mai. Pipi pipi pipi che non mi fa ridere, ma vuoi ritornare dopo il collo che farò. Yes! Domani e mandate le vostre bugie a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.